buono e quando non sono mai abitato. Mauro, ci vedo in cui può andare al ghetto e non mi sa che scallone. Ma dove, io non sono malato, che zona sono? E mo come ti è passato? Se vicino, puoi girare qua a Santa Maria, come arrivi al semaforo, rigiri a sinistra l'elettrofo. Qui è Santa Maria. Ma mi riporto sempre alla sala del ghetto. Rallenta, dai, rallenta la guarda. Sta avanti allora. Fammi passare però, rallenta che è in questa sera. Che sei bordo. Che vita hai? Non sta facendo la trombata. No, non ne ho bisogno, ci devo andare a contare a tre, sei lungo. Sei lungo? No, io, ci tu dite che non arretto subito, c'è da dove andare. Tu non voglio manca arrettare, so che mi gioca su, lo vince io, te stai là e mi vince appunto. Ah, già mi ne sto spiegando che no, mica quando ho preso il diavoloso. No, ma la passata in macchina è però, no? No, a ferro scelto, sogna tanto. Che mia me, cazzo. E l'ho fatto pure vuoto. Vuoto, te stasse ogni tanto lo faccio. Su di te mano, su di te mano. Su di te mano, vuoto, non mi cadi con te cazzata, se no te lo fa cacciare il ferro, se mi ne sei con quel David Longo, te sta minca. Messo te proprio sul nu, minca mia me, io Pietro dice che non poteva appoggiare mutandas. Grazie te cazzo mi fai passare, no? Ascolta, non mi sa che se sta amico, ora se vuoi passare in gui, ora se sono stata più semplice, più facile, è stata, non mi sa che ti scallone. Ok, fai mandare quello, non mangia più Franco da solo sicuro, che voglio da telefonare due sue principali. Le pomeride! Che c'è andati, Che c'è andati, questa non ti tirava tutto, per leggendo articolo sui giornali. E noi con Vincenzo, mica qua, dal riso, a riso in busso, se ci viene da un po' di avru guidai. Ragazza! No, e noi vi apriamo Mauro, non è che non c'è nota. Qui era pieno, non c'è niente, vedi, la DAF è qua. Magari sto spostato. Ma no cazzo, non riuscivo che in casa ti sei spostato, ma è noi, quello che bagazzo da noi, è noi Mauro, noi là che c'è via da terra crovetta, Poi visto che non c'è manco movimento da macchina, se no, no, non c'è pronota. Piano qua. Palla, minzica, se siamo obbedati sul luogo, rotondo sono ogni luogo, hanno fatto bellino adesso, prima giù via questo cazzo in croce, non vuoi? Thank you. 80.